camarade. Questa è A. Questa è A. Questa è A. Dio l'assista mia. Andrai dritto alla camera gas per questa cosa.